ha dato il meglio di sé? In entrambi. Sicuramente come tecnico ha rivoluzionato l'idea di banchiere centrale in Italia, come politico ha avuto dei contributi importantissimi. E lei ha un ricordo di Carli? Sì. Cioè, ha avuto rapporti diretti? Sì, certamente. Ricordi da molto giovane, negli ultimi anni della sua vita da governatore, in cui lui era molto attento ai giovani, cercava idee nuove, cercava di capire anche il cambiamento attraverso i giovani e poi... più in là, mi ricordo all'inizio anni 80 una telefonata sui suoi dubbi sulla capacità dell'Italia di uscire con una crescita del debito pubblico sempre più forte e consumi che crescevano di più di quelli tedeschi. Si interrogava: ma perché in Italia si consuma più che in Germania? Cioè, non aveva il dubbio che non fossimo più ricchi dei tedeschi? No, non eravamo più. Senta, ma qual è stata la qualità maggiore di Carli come governatore? Beh, Carli sicuramente ha portato... Ha detto questa innovazione... No, ha portato la Banca d'Italia a usare tecniche avanzate, modi, metodi di analisi avanzate e poi aveva chiaramente un ruolo importantissimo a livello internazionale nell'architettura finanziaria internazionale. Senta, è un difetto di Carli, del Carli banchiere? Beh, è difficile oggi, ma all'epoca forse da giovane mi sembrava... molto vicino alla grande impresa privata, forse era perché pensava che così fosse bene. Sì, però per lei era un difetto. Senta un po', all'epoca di Carli, qual era il potere del governatore, come lo pensava lui secondo la visione di Guarino? Lui ha governato il sistema bancario italiano come padrone assoluto, aveva adoperato tutte le tecniche introdotte, tutte le tecniche che consentivano al governatore di governare tutti i flussi di liquidità interna. Quindi era un liberista il suo esempio era la Russia. Lui, quando poteva citare il potere di controllo che aveva il governatore della Banca Centrale Russa su tutto il sistema, lo spiegava per sé, ma l'aveva quasi raggiunto, senza che apparisse. A lei piacerebbe avere il potere assoluto del banchiere russo? Proprio no. In questo mondo è bene condividere il potere. Sì. E qual è allora il suo principale potere oggi? Io credo che sia meglio parlare di responsabilità più che di potere. Responsabilità diretta nel confronto del sistema bancario e finanziario, certo. Ancora. Responsabilità condivisa nella collegialità del Consiglio direttivo della cioè Banca Centrale Europea. Cioè la complessità del mondo moderno costringe a una collegialità sì. Molto più forte. Sì. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.